La parrocchia di Halifax è limitrofa di quella di Bradford, nella quale la cappellania di Haworth è inclusa, e in ambedue la natura del suolo collinoso e selvatico presenta su per giù le stesse caratteristiche. L'abbondanza del carbone e la frequenza dei corsi d'acqua montani rendono il distretto assai propizio all'impianto delle manifatture, cosicché, come ho detto, gli abitanti, oltre che ai lavori agricoli, si sono per secoli dedicati alla tessitura della lana, ma le relazioni commerciali per lungo tempo non riuscirono a portare piacevolezza e civiltà in queste lontane frazioni e nelle abitazioni sparpagliate su una vasta area. Mr. Hunter, nella sua vita di Oliver Highwood, ricavata dal memoriale di un certo James Writer, che visse ai tempi della regina Elisabetta, cita la seguente osservazione, che fino a un certo punto vale ancora ai nostri giorni: non hanno nessun superiore da corteggiare, né cortesie da esternare. Ne deriva in essi un forte temperamento agro e contenuto, cosicché un estraneo è sgradevolmente colpito dal tono di sfida che ne impronta la voce e dall'espressione di fiera risolutezza che si legge sui loro volti. Ancora oggi un estraneo alla più semplice domanda difficilmente otterrà una risposta che non sia burbera, ammesso che ne riceva una. A volte l'acida asprezza giunge fino all'insulto. Tuttavia, se l'estraneo accetta di buon grado questo rozzo comportamento e insiste con la sua richiesta di gentilezza e ospitalità, quei rustici si rivelano generosi e fedeli e si può fare totalmente affidamento su di loro. Per illustrare la rozzezza che pervade tutte le classi sociali in questi villaggi fuori mano, posso riferire una piccola avventura vissuta da mio marito e da me 3 anni fa ad Addingham, proprio quel luogo citato dai ben noti conosciuti versi. Tutti luoghi che inviarono i loro uomini alla famosa antichissima battaglia di Flodden. Detto villaggio è situato a poche miglia da Haworth. Ne percorrevamo in carrozza l'unica via quando uno di quei ragazzi che non ne azzeccano una giusta e sembrano dotati di attrazione magnetica verso gli incidenti, essendo saltato in un corso d'acqua che attraversa l'abitato, proprio nel punto dove vengono gettate le bottiglie e i vetri rotti, ne uscì nudo e quasi completamente coperto di sangue. Lo vedemmo entrare traballando in una casetta rustica che si trovava davanti a noi. Oltre a un brutto taglio sul braccio, aveva un'arteria completamente lacerata, perciò si trovava in evidente pericolo di morire dissanguato, il che, disse uno dei parenti, probabilmente risparmierebbe una quantità di seccature. Dopo che ebbe fermato l'effusione del sangue con una cinghia che uno dei circostanti si era slacciata dalla gamba, mio marito chiese se avevano mandato a chiamare un chirurgo. Sì, fu la risposta, ma non pensiamo che verrà. E perché no? È vecchio, sapete, è asmatico e noi siamo in salita. Mio marito, prendendo con sé un ragazzo come guida, fece correre la carrozza quanto più velocemente possibile fino alla casa del chirurgo, lontana a un tre quarti di miglio, e vi giunse mentre una zia del ragazzo ne usciva. Viene? Le chiese. Boh, ha detto che non vuol venire. Ma gli avete fatto presente che il ragazzo potrebbe morire dissanguato? L'ho fatto, e lui? Beh, ha risposto il diavolo, se lo porti, che c'entro io. Finì tuttavia col mandare al posto suo uno dei figli che, benché non fosse istruito nella professione di chirurgo, fu in grado di fare quanto era necessario applicando bende e cerotti. A scusa del chirurgo, gli astanti dissero che era quasi ottantenne, che stava rimbambendo e aveva 20 figlioli. Fra gli astanti più indifferenti vi era un fratello del ragazzo gravemente ferito, mentre questo giaceva sul pavimento di pietra in una pozza di sangue e gridava a gran voce che il braccio lo straziava. Lo stoico parente se ne stava in circolo fumando una corta pipa nera, senza pronunciare una sola parola di conforto o di rammarico. Questi costumi selvaggi che dominavano lungo la frangia di cupo bosco che ammanta il pendio delle colline su ambo i versanti, mantennero la popolazione in un vero stato di abbrutimento fino a tutta la prima metà del XVII secolo. La pena di morte per decapitazione veniva inflitta con giudizio sommario sia all'uomo che alla donna, anche per delitti di poca entità, per cui ne derivò che la vita umana Ne derivò per la vita umana un'indifferenza ottusa e tuttavia non priva di una certa grandezza. Le pessime condizioni delle strade erano così notorie che ancora 30 anni fa le comunicazioni fra un villaggio e l'altro erano rarissime. Riuscire a portare il prodotto industriale alla data fissata al mercato dei tessuti di lana rappresentava il massimo di quanto si potesse sperare. Nelle case solitarie, sparse sui lontani pendii, o in quelle delle frazioni isolate dove imperavano piccoli magnati, si commettevano delitti che restavano quasi sempre ignorati. E, se conosciuti, non suscitavano un'indignazione popolare atta a provocare le sanzioni della legge. Bisogna tener presente che in quei giorni non esisteva una polizia rurale. I pochi magistrati abbandonati a se stessi e generalmente uniti da vincoli familiari erano per la maggior parte inclini a tollerare una condotta eccentrica e a fingere di non vedere le pecche altrui troppo simili a quelle proprie. Uomini, oggi a malapena oltre la mezza età, ricordano i giorni della loro giovinezza quando, nei mesi d'inverno, salivano la china a cavallo col fango che giungeva fino al sottopancia della sella. Quando solamente un impegno imprescindibile induceva ad uscire dalla cinta della casa e veniva atteso affrontando difficoltà che ora, trasportati alla volta del mercato di Bradford in un rapido e comodo vagone di prima classe, quasi non riescono più a credere siano state reali. Il proprietario di un lanificio mi ha raccontato di quando, meno di 25 anni fa, nei mattini d'inverno doveva alzarsi assai per tempo per mettersi in viaggio verso Bradford per scortare il carro che trasportava il panno fatto tessere da suo padre. Il carico era stato sistemato durante la notte, ma al mattino si radunava un folto gruppo di persone che, facendosi luce con lanterne, si metteva a esaminare le zampe dei cavalli prima di dare il via al ponderoso veicolo. Poi qualcuno doveva precederlo carponi, scandagliando qua e là con un bastone, scendendo lungo il ripido, scivoloso orlo della scarpata per scoprire a mano il punto dove le zampe dei cavalli potevano posarsi senza pericolo, finché finalmente si raggiungeva, Dio volendo, la strada che, segnata da profondi solchi di ruote, offriva un percorso relativamente felice. Se due città non erano collegate da una strada maestra, per recarsi dall'una all'altra si attraversava a cavallo la brughiera, che copre l'altopiano, seguendo la pista dei cavalli da carico, onerati di pacchi, balle e altra mercanzia. Ma durante l'inverno il transito era impossibile per via della neve che ricopriva a lungo e in ogni dove quelle squallide alture. Mi è stata narrata da chi l'aveva vissuta la seguente avventura. La diligenza su cui viaggiava, sul punto di giungere al valico di Blackstone Edge, fu bloccata dalla neve e i passeggeri trovarono rifugio in una piccola locanda vicina, dove furono costretti a trattenersi per una decina di giorni, trascorrendovi il Natale, il Capodanno e oltre. Le provviste, che dovevano servire al locandiere e alla sua famiglia più che sufficienti allo scopo, ben presto vennero meno a motivo dell'invasione degli inattesi ospiti e fu necessario fare ricorso ai tacchini, alle oche e agli Yorkshire pudding che i viaggiatori portavano con sé in vista delle riunioni festive che li attendevano a valle. E anche queste cibarie stavano per finire quando un benvenuto scirocco li liberò dalla prigionia. Per quanto isolati possano essere i villaggi sulle colline, essi appartengono alla vita sociale se confrontati con le grigie dimore ancestrali sparse nei profondi avvallamenti della brughiera. Abitazioni non vaste ma solide e sufficienti ad albergare comodamente la famiglia alla quale le terre circostanti appartengono. Quei poderi, spesso passati di generazione in generazione fin dal tempo dei Tudor e i loro padroni, sono di fatto quanto rimane dell'antica civiltà dei piccoli proprietari terrieri, casta di signorotti che, come classe sociale, va estinguendosi rapidamente per due motivi. O il possidente cade in un ozio indotto dal bere eccessivo e col passare del tempo è costretto a vendere la proprietà, o se è più pratico e avventuroso si accorge del piccolo rivo che scorre lungo il pendio, oppure si rende conto della natura del minerale nascosto nel sottosuolo e capisce che può trovarsi una fonte di ricchezza. Ripudia l'antica faticosa vita dell'aratore e da proprietario terriero con modesto capitale si trasforma in manifatturiero, oppure scava per portare alla luce il carbone o apre cave per estrarne la pietra. Tuttavia, sui più interni ripidi pendii si trovano ancora ai giorni nostri in remotissime case solitarie, alcuni superstiti di questa classe, il cui comportamento basta a farci capire quale inaudita eccentricità, quale selvaggia forza di volontà, anzi, meglio ancora, quale capacità di ricorrere al crimine sia stata alimentata da un regime di vita in cui l'uomo raramente incontrava i suoi simili. E la pubblica opinione non era che l'eco lontana e inarticolata di una voce più chiara che arrivava oltre la barriera dell'ampio giro dell'orizzonte. La vita, trascorsa in solitudine, si culla in vere fantasticherie, le quali con l'andar del tempo diventano manie. La fortissima indole propria degli abitanti dello Yorkshire, a malapena addomesticata e indotta alla moderazione dai ripetuti contatti stabilitisi nell'indaffarata città o negli affollati centri di mercato, nei distretti più remoti, si era consolidata in una strana caparbietà. Una singolare storia mi fu di recente raccontata. Riguardava un proprietario terriero che tutti ritengono goda di una cospicua rendita annua. Vive in una casa che mostra interessanti caratteristiche di una bella antichità, indice del buon livello sociale goduto fin da un lontano passato dalla famiglia da cui discende. Interessato dall'aspetto dell'edificio, il mio informatore aveva proposto a un abitante del luogo che lo accompagnava di avvicinarsi per esaminare da presso la struttura. La risposta fu: «È meglio non farlo, verremo impallinati da lontano. Già ha sparato dall'alto alle gambe di certi miei conoscenti che gli erano estranei e li ha beccati». Dopo aver accertato con un'accurata indagine che quella era veramente la poco ospitale abitudine del signor Otto, il mio interlocutore naturalmente rinunciò al progetto. Ho motivo di pensare che quel selvatico agricoltore sia vivo tutt'oggi. Un altro gentiluomo campagnolo, morto recentemente, apparteneva a una famiglia assai distinta ed era padrone di un vastissimo fondo. Sarebbe dunque logico supporlo in possesso di buona educazione e cultura, ma certi suoi atteggiamenti ne fanno dubitare. Viveva a poca distanza da Haworth. La sua principale occupazione e maggior svago consisteva nell'assistere ai combattimenti di galli. Costretto a letto da quella che sapeva essere una malattia mortale, si faceva portare in camera gli animali e, sostenuto dai guanciali, ne seguiva la feroce zuffa. Quando la malattia si aggravò, tanto da rendergli impossibile rivolgersi sul fianco, fece disporre alcuni specchi intorno e sopra il letto, in modo da poter vedere, rimanendo supino, i galli che si azzuffavano, e chiuse gli occhi per sempre mentre li stava contemplando. Ma quanto sopra si riduce a mere manifestazioni di eccentricità se mosso a raffronto con i racconti di vera e propria violenza, spinta fino al crimine, che caratterizzano alcuni fatti avvenuti nelle dimore isolate e ancora vivi nella memoria dei vecchi abitanti della regione. Queste storie erano certamente note alle autrici di Cime Tempestose e La signora di Wildfell Hall. Ci si potrebbe difficilmente attendere che gli svaghi dei membri delle classi umili avessero un carattere più umano di quelli di chi apparteneva ai ceti benestanti e di migliore cultura. Il conoscente che mi ha cortesemente comunicato alcuni dei fatti da me riferiti ricorda il tradizionale tormento inflitto ai tori a Rockdale meno di 30 anni fa. Il bovino veniva incatenato o assicurato con una corda a un palo piantato in mezzo al fiume e poi gli lanciavano contro i cani. Per aumentare il volume dell'acqua e dare così ai loro operai l'opportunità di un selvaggio godimento, i padroni generalmente fermavano i macchinari delle fabbriche nel giorno fissato per lo spettacolo. Il toro, nel tentativo di difendersi, a volte si volgeva all'improvviso e la corda che lo assicurava investiva, abbattendoli nell'acqua, quelli che erano stati abbastanza imprudenti da giungergli a tiro, e la buona gente di Rockdale, oltre al godere lo spettacolo dell'animale tormentato dai cani e questi scagliati qua e là e spesso sventrati, aveva per giunta l'eccitante emozione di vedere affogare uno o due dei loro vicini. La gente di Haworth non era meno forte e piena di carattere dei vicini abitanti sui due versanti della collina. Il villaggio sorge incastonato nella brughiera, sulla cerniera tra le due contee, lungo la vecchia strada da Keighley a Cone. Verso la metà dello scorso secolo esso divenne celebre nell'ambiente religioso, quale scenario del ministero ecclesiastico del reverendo William Grimshaw, che fu parroco di Haworth per 20 anni. Prima di quel tempo è probabile che i parroci fossero dello stesso stampo di un certo Mr. Nichols, ecclesiastico dello Yorkshire, che nei giorni che seguirono immediatamente la riforma protestante fu molto dato al bere e alle allegre riunioni ed era solito dire ai suoi compagni: «Non dovete darmi retta se non quando parlo da tre piedi al di sopra del suolo, cioè dal pulpito». Dalla vita di Mr. Grimshaw possiamo ricavare alcuni curiosi particolari circa il modo in cui la rozza popolazione del villaggio fu dominata e governata da un uomo dalle profonde convinzioni e dal forte e ardente impegno. A quanto sembra, egli non era stato in alcun modo degno di particolare considerazione per zelo religioso, benché conducesse una vita morigerata e avesse compiuto coscienziosamente i suoi doveri parrocchiali, fino a quando, in una certa domenica del settembre 1744, la perpetua, alzatasi alle 5, trovò il padrone già immerso in preghiera. Ella dichiarò poi che, dopo essere rimasto per un certo tempo in camera, andò a disimpegnare alcune pratiche religiose in casa di un parrocchiano e poi nuovamente a casa era tornato a pregare. Da lì, ancora a digiuno, si era recato in chiesa dove, mentre stava leggendo ad alta voce la seconda lezione, piombò a terra e, dopo che si fu parzialmente ripreso, dovette essere sostenuto per farlo uscire dalla chiesa. Mentre andava via, rivolse la parola alla congregazione dicendo ai fedeli di non disperdersi, visto che egli doveva comunicar loro qualcosa e sarebbe stato di ritorno da lì a poco. Fu condotto in casa del sacrestano, dove perse nuovamente i sensi. La sua perpetua lo massaggiò per ristabilire la circolazione e quando egli tornò in sé sembrava perso in estasi e «Ho goduto una gloriosa visione dal terzo cielo», furono le prime parole che pronunciò. Non disse che cosa avesse visto, ma tornò in chiesa e riprese la funzione alle 2 del pomeriggio e continuò fino alle 7. Da quel giorno egli si impegnò col fervore di un Wesley e con alcunché del fanatismo di un Whitefield, ambedue famosi predicatori di quel tempo, per suscitare una vita veramente religiosa nei suoi parrocchiani. Questi erano soliti giocare al calcio di domenica, facendo uso di pietre invece del pallone. Sfidavano le altre parrocchie e ne accettavano la sfida. Si facevano corse di cavalli sulla brughiera appena più su del villaggio, che erano fonte periodica di ubriacature e di scostumatezza. Difficilmente un matrimonio veniva celebrato senza essere rallegrato da sfrenate gare di podismo in cui i corridori, mezzo nudi, scandalizzavano i morigerati forestieri occasionalmente presenti. Gli Arvills, ossia i banchetti funebri di antica tradizione, si concludevano frequentemente con vere e proprie zuffe, quando chi aveva preso parte al corteo funebre si alzava da tavola completamente ubriaco dopo la buffata. Quanto ho riferito indica chiaramente con che razza di gente Mr. Grimshaw avesse a che fare. Tuttavia, con vari mezzi, alcuni dei quali di estrema praticità, egli conseguì un grande cambiamento nella sua parrocchia. Nella predicazione veniva occasionalmente aiutato dai reverendi Wesley e Whitefield, e in queste occasioni la piccola chiesa si dimostrava di gran lunga troppo angusta per contenere la folla di gente che affluiva fin dai lontani villaggi e dagli isolati gruppi di casolari sparsi sulla brughiera. Perciò spesso le riunioni si svolgevano all'aperto. In chiesa non vi era nemmeno lo spazio sufficiente per chi voleva ricevere la comunione rituale. Un giorno Mr. Whitefield, predicando a Haworth, disse, pressappoco, che sperava non vi fosse granché da dire alla loro congregazione, visto che erano guidati da un ministro tanto pio, tanto devoto da così lunghi anni, al che Mr. Grimshaw si rizzò dal posto che occupava e disse ad altissima voce: «Oh, signore, non dica simili cose, per amor di Dio, la prego, non li lusinghi. Temo che la maggior parte di essi si stia avviando all'inferno a occhi aperti». Ma se tale era la situazione, ciò non dipendeva da poco zelo da parte di Mr. Grimshaw, tutto intento a strapparli alla perdizione. Era solito predicare da 20 a 30 volte alla settimana in case private. Se si accorgeva che qualcuno non prestava attenzione alle preghiere, si interrompeva, rimproverava il colpevole e non continuava il sermone finché non vedeva tutti presenti ginocchioni. Metteva il massimo zelo nell'imporre la stretta osservanza dei precetti domenicali. Non permetteva ai suoi parrocchiani nemmeno di andare a passeggio per i campi tra una funzione religiosa e l'altra. A volte intonava un salmo lunghissimo, si tramanda che fosse il 119esimo, e mentre la congregazione cantava, lui lasciava il podio da dove leggeva e, preso uno scudiscio, faceva il giro delle osterie per spingere in chiesa, frustate, i bighelloni. Bisognava essere molto svelti per sfuggire allo staffile del parroco defilandosi dalla porta sul retro. Godeva di una vigorosa salute ed era pieno di attività. Cavalcava in lungo e in largo sulle colline, dando la sveglia a quanti non avevano avuto alcun sentimento religioso prima di allora. Per risparmiare tempo e per non essere di peso alle famiglie presso le quali si fermava per le riunioni di preghiera, portava con sé uno spuntino. E in tali occasioni il suo pasto consisteva semplicemente in un tozzo di pane imburrato oppure di pane secco con una cipolla cruda. Le corse di cavalli erano ben giustamente avversate da Mr. Grimshaw, visto che attiravano a Haworth numerosi perdigiorno di dubbia onestà, i quali, accostati alla infiammabile materia prima locale, già troppo pronta di per sé ad infiammarsi, costituivano una vera e propria pericolosa miccia. Raccontano che per fare cessare quel pericolo egli avesse tentato ogni mezzo di persuasione, dapprima, giungendo poi fino all'intimidazione, ma il tutto invano. Allora, disperando delle proprie forze, una volta aveva pregato pubblicamente con ardentissimo fervore ed era caduta una pioggia torrenziale che, riducendo il suolo a un vero e proprio pantano, tanto da non lasciar presa per piede d'uomo o di bestia, rese così lo spettacolo impossibile, anche se la folla fosse stata disposta ad esporsi alle cateratte che scendevano dal cielo. Così erano state interrotte le corse ippiche a Haworth e fino ad oggi non sono state riprese. Il ricordo di quell'uomo buono è ancora venerato e il suo fedele ministero, le sue solide virtù, costituiscono uno dei vanti della parrocchia. Temo che dopo il periodo del suo ministero vi sia stata una ricaduta nelle sfrenate e rozze consuetudini pagane dalle quali egli aveva strappato la congregazione, grazie alla forza appassionata del proprio carattere. Egli aveva fatto costruire una cappella per i metodisti wesleyani e poco tempo dopo i battisti si insediarono nelle vicinanze. Come dice il dottor Whitaker, la gente di questo distretto ha forti opinioni in fatto di religione, solo che 50 anni fa la religiosità non influiva sul loro modo di vivere. Se tornando indietro anche solo di 25 anni ne esaminiamo il codice morale, esso ci sembra ricalcato su quello dei loro antenati vichinghi. La vendetta veniva tramandata di padre in figlio, quale dovere ereditario. La grande capacità di bere senza che la mente ne fosse obnubilata era considerata una delle più virili virtù. Era tornata in vigore la consuetudine delle partite di calcio domenicali con relative sfide alle parrocchie vicine e un conseguente afflusso di intemperanti vicini che affollavano le osterie, facendo rimpiangere ai residenti più quieti il braccio vigoroso e il pronto staffile del loro buon Mr. Grimshaw. L'antica tradizione degli Arvills, o feste funebri, non cedeva. Il sacrestano, ritto ai piedi della fossa spalancata, annunciava che l'Arvill si sarebbe svolto al Blackwall, o in qualsiasi altra locanda venisse scelta dai parenti del defunto, e là si recavano i familiari in lutto e i loro amici. La consuetudine si faceva risalire alla necessità di provvedere un qualche ristoro a coloro che venivano da lontano a dare un ultimo segno di considerazione a una persona amica. Nella biografia di Oliver Highwood troviamo due passi che dicono che genere di cibo si imbandisse nelle feste funebri della quieta setta non conformista nel secolo XVII. Il primo elenca latte freddo con birra e spezie, prugne stufate, torta e formaggio. Nell'Arvill a seguito del funerale di Oliver Highwood stesso. Il secondo elenca come alquanto gretta dal punto di vista del tempo, cioè il 1673, un'offerta di soltanto un pezzo di torta, un sorso di vino, un ramoscello di rosmarino e un paio di guanti. Ma gli Arvills a Haworth spesso erano occasioni assai gioviali. Se la famiglia era povera, ci si aspettava da parte di ciascun ospite l'offerta di una specie di involtino speziato, mentre il conto delle bevande alcoliche, rum, birra scura o un miscuglio delle due detto naso di cane, era generalmente pagato da ogni consumatore che deponeva una piccola somma in un piatto posto al centro della tavola. Le famiglie più agiate ordinavano un pranzo per gli amici. Ai funerali di Mr. Charnock, il secondo successore di Mr. Grimshaw al rettorato, più di 80 persone furono invitate all'Harville, alla festa funebre, e il costo del banchetto fu di 4 scellini e 6 denari a persona, che furono interamente pagati dai familiari del defunto. Siccome alcuni schivavano di bere, vi furono frequenti scaramucce qua e là, prima che la giornata si chiudesse, a volte con orribili aggiunte di calci, lotta corpo a corpo e morsi. Benché mi sia indugiata sulle particolari caratteristiche dell'indole di questi gagliardi nativi del West Riding, quale si manifestava nei primi decenni di questo secolo, per non dire ancor più vicino a noi, nutro ben pochi dubbi che in una gente tanto indipendente, caparbia e dotata di così grande capacità di sarcastico umorismo nella vita quotidiana, non si incontrino anche oggigiorno atteggiamenti tali da scandalizzare chi conosce unicamente le maniere civilissime del Sud, mentre da parte sua l'astuto, sagace e energico uomo dello Yorkshire, incontrandoli, terrebbe quei forestieri in non poco disprezzo. Ho già detto che molto probabilmente là dove ora sorge la chiesa di Haworth vi sia stato un tempo una chiesuola di campagna o oratorio. Occupava il terzo, ossia l'ultimo posto in classifica nella categoria degli edifici ecclesiastici, secondo la legge sassone, e non aveva diritto né a un cimitero né ad amministrare i sacramenti. La sua qualifica le veniva dal fatto di non essere racchiusa in una cinta, restando aperta sui campi adiacenti e sulle brughiere. Nel lontano tempo in cui il cristianesimo veniva affermandosi nella Britannia, che in parte era ancora pagana, nel 959 il re Edgardo succedette al grande Alfredo, suo padre. Le invasioni danesi subivano una sosta, così egli poté dedicarsi a perfezionare la legislazione vigente. Fra l'altro, volle che i fondatori di quei piccoli luoghi di culto fossero tenuti senza nulla sottrarre alla decima da loro dovuta alla Chiesa, sulle quote versate dagli agricoltori, a provvedere dai 9 decimi restanti che costituivano la loro rendita al sostentamento del sacerdote al quale la cappella veniva affidata. Dopo il trionfo della riforma protestante, l'incombenza di scegliere l'ecclesiastico a cui affidare la gestione di una qualsiasi cappella di comodo, detta anteriormente chiesetta di campagna, venne riconosciuto quale inderogabile diritto del proprietario del fondo e di alcuni fiduciari, previa approvazione del parroco locale. Non si sa se a motivo di negligenza a Haworth questo diritto andò perduto fin dai tempi dell'arcivescovo Sharp nel 1691 e la facoltà di sceglierne il ministro è passata al vicario di Bradford, secondo quanto riferiscono alcune fonti. Mr. Bronte dice: il beneficio ha per protettore il vicario di Bradford e alcuni fiduciari locali. Il mio predecessore si assicurò il beneficio col benestare del vicario di Bradford, nonostante il parere contrario dei fiduciari locali. Perciò egli incontrò una così forte opposizione che dopo sole 3 settimane dovette rinunciare al beneficio. Avendo io occasione di parlare del carattere degli abitanti del West Riding col dottor Scoresby, che per qualche tempo fu vicario di Bradford, egli accennò ad alcune manifestazioni tumultuose svoltesi a Haworth in occasione dell'insediamento di Mr. Redhead, predecessore diretto di Mr. Bronte. E mi disse che in quell'occasione vi erano stati incidenti rivelatori del carattere di quella gente che egli mi consigliava di farmi raccontare. Così ho fatto e dalla viva voce di alcuni attori o spettatori di quei fatti ormai lontani sono stata edotta sui metodi impiegati per costringere alla fuga il candidato prescelto dal vicario. Il secondo successore di Mr. Grimshaw era stato un certo Mr. Charnock, che a causa di una lunga malattia si era visto impedito di svolgere la sua missione senza un aiuto. Così Mr. Redhead lo aveva raggiunto. Finché Mr. Charnock rimase in vita, il suo curato soddisfece totalmente la popolazione da cui era altamente considerato, ma la situazione mutò completamente quando, in seguito alla morte di Mr. Charnock, i parrocchiani ebbero l'impressione che i fiduciari locali fossero stati indebitamente privati di un loro diritto dal vicario di Bradford, che, senza consultarsi, diede l'incarico a vita a Mr. Redhead. La prima domenica che questi officiò nella sua nuova dignità, la chiesa di Haworth parve affollata fino agli angoli più riposti. La maggior parte dei presenti calzava gli zoccoli di legno tipici di quel distretto. Mentre Mr. Redhead era intento a leggere ad alta voce la seconda lezione, la congregazione, al gran completo, come per un impulso improvviso, incominciò a uscire dalla chiesa facendo quanto più rumore poteva con gli zoccoli, sbattendoli e inciampando, finché Mr. Redhead e il suo assistente rimasero soli a finire la funzione. E questo fu brutto abbastanza, ma la domenica successiva le cose andarono ancora peggio. Come la volta precedente, la navata centrale era affollata, ma quelle laterali erano deserte. Non vi si vedeva una creatura, non un ostacolo. Se ne capì il perché, su per giù, allo stesso punto del servizio in cui la domenica precedente era incominciata la confusione. Un uomo entrò in chiesa cavalcando un asino, col viso rivolto verso la coda. Aveva sul capo tanti vecchi cappelli quanti ne poteva portare e incominciò a incitare la cavalcatura in giro per le navate laterali e gli urli, le grida, le risate della congregazione soffocarono completamente la voce di Mr. Redhead ed egli, a quanto credo, fu costretto a desistere. Fino a questo punto, però, non erano scesi ad atti di violenza fisica. Ma nella terza domenica dovettero risentire una grande irritazione nel vedere Mr. Redhead che, determinato a sfidare la loro volontà, saliva a cavallo verso la chiesa accompagnato da vari signori giunti da Bradford. Lasciarono i cavalli al Black Bull, la piccola locanda adiacente al cimitero, ed entrarono in chiesa. Ciò visto, la gente li seguì portando con sé uno spazzacamino che proprio quella mattina avevano pagato per pulire le canne fumarie di alcuni edifici esterni di proprietà della chiesa e poi avevano fatto bere fino a ridurlo ubriaco fradicio. Gli fecero prendere posto proprio di fronte al lambone, dove col viso fuligginoso ed ebbro assentiva con fare ebete a tutto quanto diceva Mr. Redhead. Alla fine, spinto da un impulso da ubriaco, salì traballando la scaletta del pulpito e tentò di abbracciare il reverendo. Allora l'allegria profana dilagò rapidamente e infuriò. Spinsero lo spazzacamino coperto di fuliggine contro Mr. Redhead, che tentava di sottrarsi. Quando furono fuori, gettarono a terra sia lui che il suo tormentatore nel cimitero dove il sacco della fuliggine era stato rovesciato. E quando il reverendo riuscì a rifugiarsi all'interno del Blackwell, le cui porte furono immediatamente sbarrate, la gente all'esterno continuò a infuriare, minacciando di lapidare lui e i suoi amici. Uno dei miei informatori è un vecchio che a quell'epoca era proprietario del Blackwall, la locanda, ed egli sostenne che l'umore della folla scatenata era tale da mettere la vita di Mr. Redhead veramente in pericolo. Il proprietario scogitò un piano per mettere in salvo i suoi impopolari ospiti. Il Blackwall è situato poco lontano dalla cima della lunga ripida via che attraversa Haworth, in fondo alla quale, vicinissimo al ponte, sulla strada di Kifley, vi è un cancelletto per attraversare il quale si paga pedaggio. Egli fece uscire nascostamente gli ospiti indesiderati da una porta sul retro, attraverso la quale, con ogni probabilità, più di un perdigiorno era sfuggito allo scudiscio del buon Mr. Grimshaw, e lui, insieme con alcuni suoi dipendenti, prese a far passeggiare avanti e indietro di fronte all'entrata, sotto gli occhi della folla in feroce attesa, i cavalli dei signori che erano venuti da Bradford. Dagli intervalli tra le case, quelli che erano in sella videro Mr. Redhead e i suoi amici che sgattaiolavano lungo il margine sul retro della via. Allora, spronando con forza, si precipitarono a briglia sciolta verso il cancelletto. L'inviso ecclesiastico e la sua comitiva balzarono a cavallo e si allontanarono di gran galoppo prima che gli scatenati si rendessero conto che la preda era loro sfuggita e si precipitassero a corsa sfrenata giù per la via in fondo alla quale trovarono il cancello chiuso. Questa fu l'ultima apparizione di Mr. Redhead per lunghi anni. Molto tempo dopo tornò per predicare e nel suo sermone, rivolgendosi a una numerosa e attenta congregazione, ricordò con buon umore l'evento che ho descritto più sopra. La gente lo accolse cordialmente perché non avevano motivo di rancore verso di lui, benché anni prima fossero stati sul punto di linciarlo per asserire quel che credevano essere un loro diritto. Nel bel mezzo di questa gente senza legge, ma non malvagia, Mr. Bronte portò la moglie e i suoi 6 bambinetti nel febbraio del 1820. Si trovano ancora alcune persone anziane che ricordano i 6 carri stracarichi che muovevano pesantemente lungo la via lastricata, portando le masserizie del nuovo parroco verso la sua futura abitazione. Vien fatto di pensare a come lo squallido aspetto della nuova dimora, la bassa, oblunga canonica di pietra, lassù in cima dominata da uno sfondo ancor più alto di sconfinata brughiera, colpì la mente della delicata moglie la cui salute, già fin da allora, incominciava a declinare.